Capitolo 23. «Perché mai Mrs. Grant ha invitato Fanny?» disse Lady Bertram. «Come le è venuto in mente di invitarla? Fanny non pranza mai da lei, lo sai, così, senza preavviso. Non posso fare a meno di lei, sono certa che lei non desidera andare. Fanny, non desideri andare, è vero?» «Se lei le fa una simile domanda», esclamò Edmund, impedendo alla cugina di rispondere, «Fanny risponderà immediatamente che no, non lo desidera. Ma sono sicuro, mia cara madre, che le piacerebbe andare, e non riesco a vedere motivo perché non debba farlo». «Ma non so immaginare perché a Mrs. Grant sia venuto in mente di invitarla. Non l'ho mai fatto prima d'ora. Era solita invitare le tue sorelle ogni tanto, ma non aveva mai invitato Fanny». «Se non può fare a meno di me, signora», disse Fanny con fare rinunciatario. «Ma mia madre avrà mio padre con sé per tutta la serata», la interruppe Edmund. «Certo che lo avrò. E se lei chiedesse l'opinione di mio padre, signora?» «È una buona idea, farò così, Edmund. Chiederò a Sir Thomas appena verrà se posso far a meno di lei». «Come lei preferisce, signora, su questo punto. Ma io intendevo l'opinione di mio padre circa la correttezza dell'accettare o no l'invito. E penso che egli giudicherà giusto, tanto in considerazione di Mrs. Grant quanto di Fanny, che trattandosi di un primo invito, esso debba essere accettato». «Non so, gli chiederemo. Ma sarà assai sorpreso che Mrs. Grant abbia invitato Fanny». Non vi era altro da dire o da aggiungere finché Sir Thomas non fosse presente, ma la decisione, che interessava effettivamente il suo benessere per la serata successiva, occupava tanto la mente di Lady Bertram che mezz'ora più tardi, quando il marito passò un momento da lei di ritorno dai campi diretto verso il suo spogliatoio, ella lo trattenne con un «Sir Thomas, si fermi un minuto, devo dirle una cosa». Il suo tono di calmo languore, poiché non faceva mai lo sforzo di alzare la voce, era sempre obbedito e assecondato. E Sir Thomas tornò sui suoi passi. Lei incominciò subito a esporre la cosa e Fanny immediatamente sgusciò fuori dalla stanza, poiché essere argomento di discussione con lo zio come arbitro era più di quanto i suoi nervi potessero sopportare. Era ansiosa di conoscere l'esito. Lo ammetteva, forse più ansiosa di quanto avrebbe dovuto, poiché che importanza aveva, dopo tutto, andare dai Grant o rimanere a casa. Ma se lo zio ci avesse messo molto per ponderare e decidere, e avesse diretto quel volto grave verso di lei, e alla fine avesse deciso contro di lei, forse non le sarebbe stato possibile mantenere un'aria appropriatamente sottomessa e indifferente. Nel frattempo, nell'altra stanza, la sua causa prendeva una buona piega. Incominciò Lady Bertram con «Ho da dirle qualcosa che la sorprenderà. Mrs. Grant ha invitato Fanny a pranzo». «Ebbene», disse Sir Thomas col fare di chi aspetta un seguito che giustifichi la premessa. «Edmund vuole che vada, ma come posso fare a meno di lei?» «Farà tardi», disse Sir Thomas tirando fuori l'orologio. «Ma qual è la sua difficoltà?» Edmund si trovò costretto a intervenire per riempire i vuoti nel resoconto della madre. Disse ogni cosa e a lei rimase solo da aggiungere «una cosa così strana, poiché Mrs. Grant non ha l'abitudine di invitarla». «Ma non è molto naturale», osservò Edmund, «che Mrs. Grant desideri procurare una così piacevole compagnia alla sorella?» «Oh, niente potrebbe essere più naturale», assentì Sir Thomas dopo breve deliberazione. «Ma anche se nel caso non intervenisse alcuna sorella, niente secondo me potrebbe essere più naturale. Il fatto che Mrs. Grant usi una cortesia a Miss Price, nipote di Lady Bertram, non ha bisogno di spiegazione. L'unica sorpresa che posso risentire è che questa sia la prima volta che l'invito viene fatto. Fanny ha avuto pienamente ragione di accettare sotto condizione. Il suo sembra un retto modo di sentire. Ma poiché concludo che sia il suo desiderio andare, visto che alla gioventù piace stare insieme, non vedo ragione perché le venga negato il permesso». «Ma non posso fare senza di lei, Sir Thomas». «Penso proprio che lei possa, invece. È sempre lei che fa il tè, come ben sa, quando mia sorella non è presente. Forse sua sorella potrà essere indotta a passare la giornata con noi e io sarò certamente in casa». «Benissimo, allora. Edmund, Fanny può andare». La buona notizia la raggiunse ben presto. Edmund bussò alla sua porta mentre passava per recarsi nella propria stanza. «Ebbene, Fanny, tutto sistemato e senza la minima esitazione da parte di tuo zio. Non ha avuto dubbi. Devi andare». «Grazie», Sono così contenta, fu l'istintiva risposta di Fanny, anche se, dopo essersi congedata da lui e aver richiuso la porta, non poté fare a meno di pensare, eppure, perché dovrei essere contenta? Non sono forse sicura di vedere là o di udire cose che mi daranno pena? A dispetto di questa convinzione, tuttavia era contenta. Per semplice che quell'impegno sociale potesse sembrare agli occhi degli altri, ai suoi era importante e pieno di novità. Perché, tranne la giornata trascorsa a Sotherton, non aveva quasi mai pranzato fuori casa prima di allora, e benché ora si dovesse recare a solo mezzo miglio di distanza per incontrare tre sole persone, si trattava pur sempre di un invito a pranzo, e tutti i piccoli preparativi rappresentavano un interesse e una gioia di per sé stessi. Non ebbe né simpatia né aiuto da parte di chi avrebbe dovuto condividere i suoi sentimenti e guidare il suo gusto, poiché Lady Bertram non pensava mai a rendersi utile a qualcuno. E Mrs. Norris, quando giunse l'indomani, rispondendo a una chiamata mattutina e all'invito di Sir Thomas, si dimostrò di pessimo umore e sembrò unicamente intenta a diminuire il piacere, sia presente che futuro, della nipote quanto più le fosse possibile. Parola d'onore, Fanny, sei ben fortunata ad essere oggetto di una tale attenzione e indulgenza. Dovresti sentirti riconoscente verso Mrs. Grant per aver pensato a te e verso tua zia che ti lascia andare. E dovresti considerare la cosa come straordinaria, poiché spero che tu ti renda conto che non vi è nessun vero motivo perché tu vada in società in questo modo e nemmeno perché tu semplicemente pranzi fuori. Ed è una cosa che nemmeno devi aspettarti si ripeta, né devi immaginare che l'invito vada considerato come un'attenzione particolare per te. L'attenzione rivolta a tuo zio e a tua zia, e a me. Mrs. Grant pensa che sia una cortesia dovuta a noi di concederti una certa attenzione, se no non le sarebbe mai venuto in mente di farlo. E puoi stare certa assolutamente che se tua cugina Giulia fosse a casa, tu non saresti mai stata invitata. Mrs. Norris aveva ormai cancellato così ingegnosamente tutta la parte che spettava Mrs. Grant nel favore concesso, che Fanny, avendo capito che ci si aspettava che lei dicesse qualcosa, poté solo assicurare che era molto grata a sua zia Bertram che acconsentiva di fare a meno di lei e che ora stava tentando di preparare il lavoro serale di Lady Bertram in modo che non si dovesse sentire la sua assenza. «Oh, sta pur certa che tua zia può fare benissimo a meno di te, se no non ti si permetterebbe di andare. Io sarò qui, perciò puoi sentirti del tutto tranquilla rispetto alla zia e spero che tu abbia una piacevolissima serata e trovi ogni cosa assolutamente deliziosa». Ma devo osservare che 5 è il numero più imbarazzante da sistemare a tavola e non posso non essere sorpresa che una signora elegante come Mrs. Grant non abbia progettato meglio le cose. E intorno a quella loro grande tavola rotonda poi che riempie la stanza in modo così orribile. E pensare che il dottore si accontentava di prendere la mia tavola da pranzo quando me ne andai, come una qualsiasi persona di buon senso avrebbe fatto, invece di portare quella sua assurda tavola nuova che è più grande, addirittura più grande della tavola da pranzo di qui. Quanto sarebbe stato infinitamente meglio e quanto ne sarebbe stato più rispettato, perché la gente non è mai propriamente rispettata quando esce dalla propria sfera. Ricordatelo, Fanny. 5 persone, solamente 5, sedute intorno a quella tavola. Tuttavia son certa che avrete un pranzo sufficiente per 10. Mrs. Norris riprese fiato e subito riattaccò. La stoltezza e la follia della gente che esce dal proprio rango e cerca di sembrare più di quanto non sia mi induce a darti un giusto suggerimento, Fanny. Ora che stai per andare in società senza nessuno di noi, e io ti esorto molto, molto fermamente a non metterti avanti parlando e dando la tua opinione come se fossi una delle tue cugine, come se tu fossi la cara Mrs. Rushworth o Giulia. Questo non va, credimi. Ricordati che dovunque tu ti trovi devi sempre essere la più umile e l'ultima, e benché Miss Crawford sia in un certo senso a casa sua alla canonica, tu non hai la precedenza su di lei. E in quanto al ritorno, stasera dovrai rimanere quanto piacerà a Edmund, lascia a lui ogni decisione. Sì, signora, non mi verrebbe in mente di agire in modo diverso. E se dovesse piovere, cosa che ritengo più che probabile, poiché in vita mia non ho mai visto il tempo minacciar pioggia più di oggi, dovrai aggiustarti quanto meglio potrai e non pensare che si faccia venir fuori la carrozza per te. Certamente io non tornerò a casa questa notte, per cui la carrozza non avrà da uscire per me. Perciò devi pensare a quel che potrebbe succedere e di vestirti di conseguenza. La nipote pensò che ciò era perfettamente ragionevole, Le sue pretese in materia di agi e speciali riguardi erano tanto umili quanto Mrs. Norris poteva desiderare, e quando Sir Thomas poco dopo socchiuse la porta e disse: «Fanny, perché ora vuoi la carrozza?» provò uno sbalordimento tale che le fu impossibile parlare. «Mio caro Sir Thomas!» esclamò Mrs. Norris, rossa per il dispetto. «Fanny può andare benissimo a piedi!» «A piedi?» ripeté con un tono di dignità tale da escludere ogni discussione ed entrò nella stanza. «Mia nipote recarsi a piedi a un pranzo cui è stata invitata in questa stagione? Le 4:20 ti vanno bene?» «Sì, signore», fu l'umile risposta di Fanny, che di fronte a Mrs. Norris si sentiva quasi in colpa, e poiché non sopportava di restare in sua presenza, quasi ad assaporare il proprio trionfo, seguì lo zio fuori dalla stanza. Non prima, però, di essere raggiunta da queste parole concitate e irose: «Assolutamente inutile, fuori posto, molto, troppo gentile. Ma ci va anche Edmond, è vero? È per via di Edmond? Ho osservato che giovedì sera aveva un po' di raucedine.» Fanny non si lasciò impressionare. Dentro di sé era certa che la carrozza era per lei e solo per lei, e la considerazione che lo zio le dimostrava, così in contrasto con gli astiosi ammonimenti della zia, le strappò lacrime di gratitudine, non appena si trovò da sola. Il cocchiere fu davanti all'ingresso puntuale al minuto. Un altro minuto e il cavaliere scese le scale. E poiché la dama, facendosi scrupolo di essere in ritardo, era già seduta in salotto con molto anticipo, Sir Thomas le vide partire in tempo debito, come esigevano le sue abitudini correttamente puntuali. «Adesso lascia che ti guardi, Fanny», disse Edmund col gentile sorriso di un fratello affettuoso, «e che ti dica come stai. Bene. Davvero molto bene, per quel che posso giudicare con questa luce. Che cosa ti sei messa?» «Oh, il vestito nuovo che lo zio ha avuto la bontà di regalarmi per il matrimonio di mia cugina. Spero che non sia troppo importante, ma ho pensato che dovevo metterlo nuovamente alla prima occasione, perché potrei non avere un'altra opportunità simile in tutto l'inverno. Spero che tu non mi trovi esageratamente elegante.» «Oh, una donna non può mai essere esageratamente elegante quando è tutta vestita di bianco, no? Non vedo niente di esagerato nella tua acconciatura, niente che non sia assolutamente adatto. Il tuo vestito mi sembra molto bello. Mi piacciono questi pois lucidi. Miss Crawford non ha un vestito simile a questo?» Poi, mentre si avvicinavano alla canonica, passarono davanti al cortile della scuderia e alla rimessa. «Ehi!» disse Edmund, «ci sono visite, c'è una carrozza. Chi hanno invitato a farci compagnia?» E abbassando il finestrino dalla sua parte per vedere meglio, aggiunse: Ma è Crawford! È il calesse di Crawford, ne sono certo. Ci sono i suoi due servitori che lo spingono nella rimessa dove stava di solito. Lui è qui, naturalmente. Oh, questa è proprio una sorpresa, Fanny. Mi farà molto piacere rivederlo.» Fanny non ebbe il tempo né l'opportunità per dire quanto diversamente la pensasse, ma l'idea che ci sarebbe stata un'altra persona ad osservarla, e inoltre proprio quella persona, contribuì ad accrescere e di molto la trepidazione con cui si sottopose alla terribile cerimonia dell'ingresso in salotto. Qui, naturalmente, si trovava Mr. Crawford. Era arrivato giusto in tempo per cambiarsi per il pranzo. I sorrisi e l'espressione compiaciuta dei familiari che gli stavano intorno dimostravano quanto bene accetta fosse la sua improvvisa decisione di venirli a raggiungere per alcuni giorni, lasciandosi alle spalle Bath. L'incontro fra lui e Edmund fu molto cordiale e, ad eccezione di Fanny, tutti avevano un'aria soddisfatta e compiaciuta. Anzi, persino lei poteva trarre qualche vantaggio dalla presenza di Mr. Crawford, visto che ogni aggiunta al numero degli ospiti non poteva che favorire la sua tendenza naturale a starsene seduta in silenzio, ignorata dagli altri. Se ne rese conto quasi subito, poiché, pur dovendo rassegnarsi come esigeva la proprietà della sua educazione sociale, e a dispetto dell'opinione della zia Norris, al fatto di essere l'ospite d'onore e di conseguenza accettare tutti i minuti riguardi imposti dalla circostanza, quando sedettero a tavola la conversazione fluì così piacevolmente animata e disinvolta da non richiedere la sua partecipazione. Fratello e sorella avevano tanto da dire a proposito di Bath, e i due giovanotti sulla caccia a cavallo, e Mr. Crawford e il dottor Grant sulla politica, e Mr. Crawford e Mrs. Grant su questo e su quest'altro da offrirle, da lasciarle la lieta prospettiva di dover ascoltare in silenzio e trascorrere così una piacevolissima serata. Tuttavia non seppe felicitarsi col nuovo arrivato, dimostrando un qualche segno di interesse per il suo progetto di fermarsi a Mansfield e far venire i suoi cavalli da caccia da Norfolk. Progetto che, suggerito dal dottor Grant, consigliato da Edmund e vivamente caldeggiato dalle due sorelle, assorbì ben presto tutto l'interesse di Mr. Crawford, il quale sembrò aver bisogno, per prendere una decisione, anche dell'incoraggiamento di Fanny. Da ultimo, volle conoscere la sua opinione circa la probabile continuazione del bel tempo, ma le risposte di lei furono tanto brevi e piene di indifferenza quanto lo permetteva la cortesia. Non poteva desiderare che gli si fermasse e avrebbe preferito senz'altro che non le rivolgesse la parola. La sua presenza le richiamava continuamente alla mente le due cugine lontane, Maria specialmente, ma lui non veniva sfiorato da nessun ricordo imbarazzante. Rieccolo nel luogo dove tutto era avvenuto poco tempo prima e apparentemente così desideroso di fermarsi e di godersela senza le signorine Bertram, come se non avesse mai conosciuto Mansfield in circostanze diverse. Lo udì chiedere delle cugine in modo generico finché non furono nuovamente riuniti in salotto. Allora, mentre Edmond, appartatosi con il dottor Grant, parlava con lui di certi loro interessi che sembravano assorbirli completamente e Mrs. Grant si dava da fare intorno al tavolino da tè, Mr. Crawford tornò meno genericamente sull'argomento, rivolgendosi a Mary. Con un sorriso carico di sottintesi che lo rese odioso a Fanny, disse: "E così Rushworth e la sua bella sposa sono a Brighton, a quanto mi dicono. Uomo felice." "Sì, sono là da circa una settimana, vero Miss Price? E Giulia è con loro. E immagino che Mr. Yates non sia lontano." "Mr. Yates? Oh, qui non sappiamo nulla di Mr. Yates. Ho idea che non sia spesso citato nelle lettere che giungono a Mansfield Park. Lei che ne dice, Miss Price? Penso che la mia amica Giulia abbia troppo buon senso per intrattenere suo padre con notizie di Mr. Yates." "Il povero Rushworth con le sue 42 repliche," continuò Crawford. "Nessuno potrà mai dimenticarle. Poveretto, mi sembra ancora di vederlo. La sua fatica e la sua disperazione. Bene, sono certo che la sua incantevole Maria non avrà mai il desiderio che egli le dedichi 42 repliche." Poi, con momentanea serietà: "È troppo buona per lui, troppo, troppo buona." E cambiando nuovamente tono per improntare le sue parole a garbata galanteria, si rivolse a Fanny: "Lei è stata la migliore amica di Mr. Rushworth. Nessuno può dimenticare la sua gentilezza, la sua pazienza, quella sua instancabile pazienza quando tentava di metterlo in grado di imparare la sua parte, di dargli quel cervello che la natura gli ha negato, di suscitare in lui un po' di intelligenza, ricavandola dalla sovrabbondanza della sua. Forse lui non possedeva abbastanza criterio per valutare la sua gentile bontà, ma posso dichiarare che essa è stata apprezzata da tutto il resto della compagnia." Fanny arrossì e non rispose. "È come un sogno, un piacevole sogno," egli esclamò dopo un attimo di assorta meditazione. "Ripenserò sempre con squisito piacere al nostro esperimento teatrale, così pieno di interesse, di animazione, di brio. Tutti lo abbiamo sentito. Ci sentivamo tutti così vivi. C'era attività, speranza, sollecitudine, trambusto per ogni ora del giorno. Sempre qualche piccola obiezione da affrontare, qualche lieve dubbio, qualche ansietà da superare. Non sono mai stato più felice." Con silenziosa indignazione, Fanny ripeté fra sé: "Mai più felice. Faceva ciò che, e lo sapeva bene, era ingiustificabile. Mai più felice di quando agiva con tanta disonestà, con tanta insensibilità. Che mente corrotta!" "Non abbiamo avuto fortuna, Miss Price," continuò lui abbassando la voce, per evitare di essere udito da Edmund e non rendendosi assolutamente conto dei sentimenti di lei. "Certamente siamo stati molto sfortunati. Una settimana di più, appena un'altra settimana ci sarebbe bastata. Penso che se gli eventi fossero dipesi da noi, se Mansfield Park avesse potuto governare i venti appena per una settimana o due verso l'equinozio, le cose sarebbero andate diversamente. Non avremmo messo in pericolo la sua sicurezza scatenando una terribile tempesta. No, ma lo avremmo trattenuto solamente con un costante vento contrario, con una bonaccia. Penso, Miss Price, che ci saremmo concessi una bonaccia in pieno Atlantico in quella stagione." Sembrava deciso ad ottenere una risposta. E Fanny, distogliendo il viso, disse con un tono più fermo del solito: "Per quanto mi riguarda, signore, io non avrei ritardato il suo ritorno di un solo giorno. Al suo arrivo lo zio ha disapprovato così risolutamente tutta la faccenda che secondo me la cosa era già andata abbastanza lontano così." Mai, in vita sua, gli aveva parlato tanto a lungo e mai, prima di allora, si era rivolta a qualcuno con tanta irritazione repressa e quando ebbe finito di parlare tremò e arrossì del proprio ardire. Egli fu sorpreso, ma dopo averla osservata in silenzio per qualche istante, replicò in un tono più calmo e più grave, come spinto da onesta convinzione. Penso che lei abbia ragione, fu tutto più piacevole che prudente. Stavamo diventando troppo rumorosi. E poi, cambiando discorso, tentò di impegnarla su altri argomenti, ma le risposte di lei furono così timide e così riluttanti che non gli riuscì di mandarne avanti nessuno. Miss Crawford, che aveva gettato ripetute occhiate al dottor Grant e a Edmund, ora osservò: Quei signori devono avere veramente qualcosa di molto interessante da discutere. Oh, la più interessante del mondo, rispose suo fratello. Parlano di come far denaro, di come migliorare delle entrate già buone. Il dottor Grant sta dando suggerimenti a Bertram su come gestire il beneficio ecclesiastico di cui riceverà l'investitura fra breve. Ho sentito che sarà ordinato da qui a poche settimane. Hanno incominciato a parlarne in sala da pranzo. Sono lieto di sapere che Bertram sarà così ben provvisto. Avrà una buonissima rendita, tale da farne al rimbalzello e la guadagnerà con poca fatica. Sento che non avrà meno di 700 sterline all'anno. 700 sterline sono una bella somma per un figlio cadetto. E siccome naturalmente continuerà a vivere in famiglia, il guadagno andrà tutto per i suoi menu plaisir e una predica a Natale e a Pasqua rappresenterà la somma delle sue fatiche. La sorella tentò di buttarla sul ridere per nascondere i suoi veri sentimenti. Oh, niente mi diverte di più, disse, della disinvoltura con cui tutti decretano l'abbondanza di mezzi di quelli che hanno assai meno di loro. Resteresti senza fiato, Harry, se i tuoi menu plaisir dovessero essere limitati a 700 sterline l'anno. Forse sì, ma queste cose, come sai, sono piuttosto relative. Il diritto di primogenitura e l'uso decidono della situazione. Bertram è certamente in buone condizioni, come cadetto, sia pure della famiglia di un baronetto. Quando giungerà ai 24-25 anni, si troverà a disporre di 700 sterline all'anno senza far nulla per guadagnarle. Miss Crawford avrebbe potuto dire che ci sarebbe stato qualcosa da fare e da soffrire per guadagnarle, qualcosa a cui lei non poteva pensare a cuor leggero. Ma si trattenne e lasciò andare, e si sforzò di mantenere un aspetto calmo e indifferente quando i due gentiluomini, poco dopo, si riunirono a loro. Bertram, disse Harry Crawford, mi farò un punto d'onore di venire a Mansfield per ascoltare il suo primo sermone. Verrò appositamente per incoraggiare un giovane esordiente. Quando sarà? Miss Price vuole unirsi a me per incoraggiare suo cugino. Non vuole impegnarsi ad ascoltarlo con gli occhi costantemente fissi su di lui. Per tutto il tempo, come farò io, per non perdere una sola parola, o ad abbassare lo sguardo solamente per annotare una frase particolarmente bella? Ci provvederemo di tavolette e matita. Quando sarà? Sa, Bertram, lei deve predicare a Mansfield, in modo che Sir Thomas e Lady Bertram la possano ascoltare. Me ne starò al largo da lei quanto più potrò, Crawford, disse Edmund, perché lei più che altro non farebbe che sconcertarmi. E mi rincrescerebbe assai di vedere lei intento a farlo, più che se si trattasse di qualsiasi altra persona. Oh, possibile che non capisca il vero senso di queste parole, pensò Fanny. No, non sa capire niente come dovrebbe. Ora che la compagnia era tutta riunita e i migliori conversatori si davano la replica, si rifugiò nel silenzio. E poiché dopo il tè fu organizzato un tavolino di whist, organizzato in verità esclusivamente per il divertimento di Mr. Grant dalla sua premurosa consorte, benché non lo si dovesse ammettere, e Miss Crawford aveva preso la sua arpa, a lei non restò niente da fare se non ascoltare, e la sua quiete rimase indisturbata, eccetto quando ogni tanto Mr. Crawford le rivolgeva una domanda o una considerazione alle quali non poteva evitare di rispondere. Miss Crawford, da parte sua, era troppo maldisposta da quanto era stato detto poco prima per sentirsi in condizione di interessarsi a qualsiasi cosa all'infuori della musica. Suonava l'arpa e così si calmava e intratteneva l'amica. Il sentir confermare che Edmund avrebbe ricevuto gli ordini di lì a così poco tempo le era giunta come un colpo, rimasto fino allora sospeso e che lei aveva ostinatamente sperato, incerto e lontano. Ora lo recepiva con risentimento e mortificazione, era irritatissima contro Edmund. Aveva incominciato a pensare a lui e ora se ne rendeva conto con grande considerazione, con intenzioni quasi decise, ma se le cose stavano così lo avrebbe ripagato con la sua stessa indifferenza. Era evidente che egli non poteva avere né intenzioni serie né sentimenti profondi se si impegnava ad accettare una situazione alla quale, doveva ben saperlo, lei non si sarebbe mai abbassata. D'ora in poi lo avrebbe trattato col distacco con cui lui la trattava. Avrebbe accettato le sue attenzioni senza pensare ad altro che a trarne un attimo di divertimento. Se lui poteva controllare così i suoi sentimenti, lei non avrebbe permesso che i propri la danneggiassero.